before, have I turned on you? You look too good to me. Your beady eyes like a cut me in two, and I just can't let you be. But it's a free for all, and a hide I said, you can bet your life. Stakes are high, and so am I. It's in the air tonight. It's a fever all. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, gli ex. Allora, per RCS sono 98.6 per la bassa veronese e le zone della Lissinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Val d'Adige. Radio RCS si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Dall'hard blues inglese degli anni 70 passiamo a quello americano della stessa decade, iniziando con Ted Nugent, che abbiamo ascoltato dal disco Free For All del 1976. Chitarrista carismatico e fuori da ogni regola, ancora in attività, che ha saputo mantenere una importante reputazione. Che ne dite? Beh, insomma, ha fatto anche un mucchio di grandissimi successi. Adesso forse sta mollando un po' il chiodo, certo, però la caccia con l'arco. Sì, esatto, va a caccia con l'arco, forse si dedica più ai suoi sport che alla musica, però è sempre stato un grande, insomma, estremo come deve essere un rocker vero. Dei è il titolo del vostro quarto disco. Quale significato avete voluto dare a questa parola? Ma guarda, il testo, cioè il titolo dell'album, penso che venga scelto verso la fine, nel senso che i pezzi ci piacciono tutti particolarmente e abbiamo studiato un attimino quello che era il titolo e abbiamo deciso Day proprio perché in questi anni ci sono un sacco di day che strani che ci costringono a fare delle cose che non vogliamo magari ed è per quello che ci sembrava simbolico per questo periodo dell'uscita. Il 1970 vede l'esordio dei Blue Oyster Cult, la band di New York, dell'omonimo disco con la canzone Then Came the Last Days of May. E un pizzico di psichedelia che rendevano e rendono questa band unica nel panorama americano. Che ne pensate? No, sono sempre stati dei grandi Blue Oyster Cult, anche se io personalmente c'era quella specie di lotta tra loro e Black Sabbath a suo tempo. Avevano fatto anche, ne parlavamo prima, la tournée insieme, Black, certo, and Blue 1980, però in effetti loro sono la versione scura americana, mentre la versione scura tra virgolette inglese, insomma, noi forse la preferiamo, anche perché siamo più orientati alle cose più immediate piuttosto che al rock americano. Vostre influenze musicali quali sono e quanto sono importanti nella scrittura delle canzoni? Ma guarda, le influenze musicali sono varie, perché appunto, come dice il nome, siamo ex e ex di vari gruppi e varie derivazioni, quindi tutta la buona musica, diciamo. Ecco, naturalmente prediligiamo l'hard rock, come si capisce anche da quello che suoniamo, ma anche Ago ha altre preferenze, non so, funky o qualcos'altro. Tipico del bassista. Tipico. Bassista. La sperimentazione. È quello che dà la verità, sono partito suonando heavy metal, hard rock. È solo ultimamente che mi sono un po', diciamo, hai sperimentato, verso, ecco, sperimentando, insomma, verso, stai svariando un funky, po', ecco. Sì, ma non è male, perché dà un tocco funky rock che per noi è molto importante. C'è un po' tipo Free Day, Red Hot. Chiudiamo allora la seconda parte con i Grand Funk Railroad, il trio poi divenuto quartetto di Flint, Michigan, dal disco Pluribus Funk del 1972 con No Lies. Poi sarà la volta di sentire sei canzoni tratte dal disco Day degli X, rimanete in ascolto.